Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La Procura di Roma ha chiuso il caso sulla scomparsa del fisico catanese Ettore Majorana, archiviando la sua scomparsa come un trasferimento volontario. Ma sulla vicenda rimane il giallo. Il fisico catanese, nato nel 1906, è sparito nel nulla la sera del 27 marzo 1938, in occasione di un viaggio sul piroscafo che da Palermo lo avrebbe portato a Napoli. La Procura di Roma, che ha archiviato l'inchiesta, riaperta nel 2008 dopo la puntata di Chi l'ha visto, è convinta di aver acquisito un punto fermo. Lo scienziato si trasferì all'estero, permanendo in Venezuela almeno nel periodo tra il 1955 e il 1959, un trasferimento che il procuratore aggiunto Pier Filippo Laviani definisce volontario. A determinare la riapertura delle indagini fu la testimonianza di Francesco Fasani, un meccanico che al programma di Rete 3 e poi agli inquirenti affermò di aver conosciuto. Sicuramente tutti sarete al corrente dei tanti misteri, delle voci che sono circolate attorno al caso di Ettore Majorana. Era uno dei ragazzi via Panisperna, le menti più brillanti che produsse il nostro paese probabilmente nell'ultimo secolo, e un bel giorno, il 27 marzo del 38, scomparve. Prese il piroscafo per Palermo, di lui non si seppe più nulla. Lo fece cercare anche il Duce in maniera spasmodica, perché una delle voci che giravano al tempo che fosse a conoscenza dei segreti del famoso raggio della morte, l'arma finale che avrebbe cambiato completamente le posizioni nel conflitto mondiale, la contrapposizione fra blocchi. Ma in realtà di Majorana ufficialmente non si seppe più nulla. Ci furono tante contraddittorie testimonianze, ma ci fu poi questa sentenza che definì che comunque non si era suicidato, era andato in un paese lontano del Sud America e gli era stato comunque fino agli anni 50, poi non se ne seppe più nulla. Beh, questa mattina riprendiamo il filo delle idee che possono essere circolate, alcune anche con delle circostanze con sufficienti elementi attendibili attorno al caso di Ettore Majorana. Perché? Perché questa mattina mi interessa mettere in contrapposizione due storie, due vicende che hanno molti punti in comune. La prima ve la comincio a raccontare ora, è legata a Ettore Majorana, la seconda è legata a un altro personaggio, ma al centro delle due vicende sono due macchine fantastiche, due macchine che sembrano essere partorite all'immaginazione di un autore di fantascienza, due macchine su cui si sono mossi comunque personaggi attendibili, personaggi potenti, capi di Stato, altissimi prelati, addirittura in una delle due circostanze citiamo addirittura un Papa. L'una macchina è quella che deriverebbe comunque dagli studi di Ettore Majorana, il motivo per cui è scomparso dall'umanità, perché si dice portatore di un segreto così forte, così potente, così terribile da gestire, che tanta era la paura di un onesto scienziato che l'uomo avesse fatto un uso scellerato di questa sua scoperta, ha preferito scomparire. L'altra è una macchina che rappresenta l'ipotesi più incredibile e più fascinosa dell'umanità, la macchina per viaggiare nel tempo. Ma iniziamo dalla macchina di Ettore Majorana, perlomeno la macchina presunta attribuibile a Ettore Majorana. Voi dite Majorana scomparve nel 38, però dagli anni 50 in poi ci fu un personaggio che in Italia cominciò a frequentare un monaco seppellito in un monastero del Meridione, che a detta di questo signore si trattava proprio di Ettore Majorana. Di questa vicenda, che è molto complessa e molto controversa, abbiamo il più attendibile depositario, perlomeno, e osservatore di quelli che sono i documenti che l'hanno raccontata, che è il collega Rino Di Stefano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno Rino a te, ascoltatori. È un giornalista, ha scritto per il giornale diversi articoli sulla scomparsa di Ettore Majorana, anche un sito rinodistefano.com, però io questa mattina l'ho chiamato perché da lui voglio un aiuto per ricostruire questa storia, la storia del signor professor, dottor, scienziato, non so bene come definirlo, Rolando Pelizza, che è il personaggio che dice che comunque lui ha avuto per un periodo lungo, lungo della sua esistenza, ma importante, contatti con Ettore Majorana. Vediamo di riprendere il filo da quando Majorana scomparve, dalla attestazione ufficiale che comunque fino agli anni 50 era vivere in Sud America, e come questo si collega alla storia di questo signor Pellizza, che innanzitutto tu ci direi chi è. Certo, dunque Pellizza è classe 1938, lui sostiene di aver conosciuto Ettore Majorana in un convento del Sud Italia il 1° maggio del 1958, ne sarebbe diventato l'allievo e con il tempo avrebbe imparato, diciamo così, delle nozioni di una nuova fisica. Che poi sarebbe Serra San Bruno, se non sbaglio. Lui non ha, Pellizza si rifiuta di dire in quale convento appunto si trovasse Majorana, comunque la, diciamo così, la voce popolare è che si tratti proprio dell'eremo di Serra San Bruno. Perché sono andato da quelle parti, tutti parlavano di questa vicenda. Sì, appunto, anche perché è stato il Papa Giovanni Paolo II il primo durante una visita nel 2002 a dire pubblicamente in questo eremo ha trovato accoglienza il genio di Ettore Majorana, anche se poi i frati lo hanno smentito. I frati l'hanno naturalmente smentito. Vabbè, certo. Questo è tipico comunque. Vabbè, sì. Dire tutto il contrario di tutto, quindi tutto rimane com'è. Certo. Allora, questo Pellizza, tu l'hai conosciuto, sentito? Sì, certo. Ecco, che impressione ti ha fatto? Chi è? Perché potrebbe essere un grande scienziato. Lui dice di essere l'allievo prediletto di Majorana, addirittura sì. Si somigliano come due gocce d'acqua, sembra quasi un fratello, un figlio. Di Ettore Majorana? No, la somiglianza fisica non c'è davvero. E comunque l'impressione è un personaggio molto controverso. Io ho avuto modo, così, per la documentazione di cui sono venuto in possesso e che lui mi ha fatto avere, di accertare la sua buona fede, almeno quella sì. E soprattutto, comunque, se vogliamo attenerci a quella che è la documentazione ufficiale, cioè senza andare nel fantastico o fare ipotesi di qualsiasi natura, il personaggio Pellizza viene fuori nel 1976, quando lui forma una società insieme ad un colonnello dei servizi segreti dell'epoca, il colonnello Massimo Pugliese del SID, la Transpraesa, e questo signore, il colonnello Pugliese, chiede al governo italiano, allora retto da Giulio Andreotti, era il terzo governo Andreotti, di verificare la potenzialità di questa macchina di Pellizza. Un passaggio importante. Sì. Questa macchina i cui piani di costruzione gli avrebbe dettato Majorana, che lui andava a trovare in questo convento, consisteva in una macchina capace di annichilire la materia e creare energia, un disintegratore, esatto. Il famoso raggio della morte che però produceva energia. Sì, tanto per dare così un piccolo esempio agli ascoltatori, da un grammo di ferro annichilito si ottiene un'energia pari a 15.000 barili di petrolio, quindi insomma... Avrebbe cambiato, diciamo, il corso dell'umanità, i rapporti dell'economia, delle potenze. Sì, direi di sì. Era basata, diciamo, sulla teoria dei neutrini, che è quella per cui si applicava Majorana. Ma più che altro nei positroni. Ah, positroni. Questa macchina, sì, questa macchina fornirebbe, cioè estrarrebbe positroni, quindi elettroni di carica positiva, i quali, incontrando la materia fatta da elettroni, la disintegra, la annichilisce. È, diciamo, il discorso dell'antimateria, tanto per essere un po', diciamo, la fisica teorica darebbe credo a questa cosa, ma nessuno l'ha mai dimostrato fattibilmente. E lui di questa macchina aveva delle prove che l'avesse costruita. Sì, certo, tant'è vero che l'aveva proposto al governo italiano. Lui aveva avuto due sponsor, Flaminio Piccoli, che allora era segretario nazionale della DC, e Loris Fortuna, che in quel momento era presidente della Commissione Industria della Camera. A te ti viene da pensare che personaggi di questo calibro, cioè potenti democristiani, astutissimi, si muovessero a caso e a vuoto su una cosa che ha un fondo solo leggendario? Io penso di no, penso che qualcosa di concreto ci dovesse essere, tant'è vero che Andreotti diede incarico al professor Clementel, ordinario di fisica dell'Università di Bologna, nonché presidente del CNEN, di accertare appunto quanto potenziale avesse questa macchina. Il professor Clementel preparò un protocollo di 4 prove che poi vennero sottoposte alla macchina stessa, e queste prove furono assolutamente positive. Tant'è vero che il professor Clementel se ne uscì con un giudizio su queste prove molto, molto lapidario. Sono due cartelle scritte a mano che io ho, e lui termina dicendo: in ogni caso, anche nell'ipotesi non ancora escludibile di fascia laser, le energie e soprattutto le potenze in gioco si porrebbero al di là dei limiti dell'attuale tecnologia. Quindi il risultato fu decisamente positivo. Ecco, esiste anche, per il valore può avere un filmato, sappiamo che nulla è più turlupinante che un filmato, potrebbe essere. Certo. Però esiste un filmato, tu hai anche messo in rete, in cui c'è una prova di questa macchina, cosa si vede? Sì, dunque, si vede praticamente l'obiettivo di questa macchina di fronte a dei bersagli che vengono spostati continuamente, perché il protocollo di Clementel prevedeva per esempio di forare una lastra di acciaio inox, oppure di superare un oggetto che veniva frapposto tra l'obiettivo e il bersaglio, perché questi raggi erano in grado di attraversare un eventuale ostacolo e quindi colpire lo stesso il materiale che si voleva distruggere. Proprio il raggio della fantascienza, quello che vediamo nei film. E quando il raggio colpiva, raggio invisibile tra l'altro, si vedeva una grande fiammata perché disintegrava questo materiale. Dove l'hai presi questi filmati? Io l'ho visti, si vede un signore abbastanza dissimulato con degli occhiali e un cappelletto che mette delle lastre. È lui, è Pellizza. Che parte questo raggio e prende fuoco una lastra di ferro, mi sembra, qualcosa del genere. Esatto, sì, di acciaio inox. Dove l'hai trovati questi filmati? Dunque, il discorso è questo. Pellizza, già dall'inizio di questa storia, ha deciso di archiviare tutto il materiale che lo riguardava presso un suo parente, e lì ha fatto il suo archivio personale. Quindi lì ci sono sia i filmati sia i documenti. Esattamente ci sono 26 faldoni di documenti. Tu li hai visti, questi materiali? Certo, e io ho avuto accesso a questi documenti, tant'è vero che ho una documentazione piuttosto vasta, per esempio i contatti che poi ci furono tra l'ambasciata americana e il Pellizza stesso. Ecco, poi fu contattato sia dagli Pellizza americani, che mi sembra dai belgi o qualcosa, o se non sbaglio, che volevano usarla come arma, gli proposero di disintegrare un carro armato e un satellite. Esatto. Il discorso è questo: il Pellizza non voleva assolutamente che la macchina venisse usata a scopi militari. Infatti il Majorana, o il presunto tale, gli aveva detto che per nessuna ragione la macchina dovesse essere usata per scopi militari. Cosa gli chiesero invece gli americani? Cosa avrebbe dovuto fare? Ma prima degli americani, scusa, c'è qualche passaggio, nel senso che prima se n'era occupato appunto il governo italiano. Quando il governo italiano ha saputo che il colonnello Pugliese si era rivolto agli americani, Andreotti ha mollato immediatamente Pellizza, e quindi sono rimasti in gioco gli americani. Tipico doppio giochismo di quegli anni, in cui i servizi erano collusi con tutto e il contrario di tutto, certo. Sì, probabilmente Pugliese pensava che le cose con il governo italiano andassero troppo per le lunghe, e allora aveva deciso di rivolgersi agli americani. Gli americani avevano chiesto, prima di tutto, la cosa arrivò direttamente al presidente Ford, Gerald Ford, il quale inviò qui a Roma il suo rappresentante personale, si chiamava Matthew Tutino, e questo qui chiese a Pellizza di abbattere un satellite geostazionario. È tutto documentato questo? Tutto. Fino a questo momento parliamo di argomenti documentati, quindi non è assolutamente il giornale assolutamente dei misteri. Ecco, No, qui ci sono tutti i documenti. Qui davanti a me ho tutta la corrispondenza intercorsa tra l'ambasciata americana e Pugliese. Ecco, e anche qua mi sembra che un presidente degli Stati Uniti si muova su una leggenda metropolitana. Io credo di no. Anche perché si espone molto. Gli ha detto: abbatti il satellite geostazionario. Sì, e infatti diede le effemeridi, cioè le coordinate per abbattere questo satellite, ma lui si rifiutò, perché lui disse: no, o usate questa macchina per scopi civili o non se ne fa niente. Scusami un attimo, prego. Rino, chiama, intanto ricordo il numero 800240024, il signor Aldo, che forse è un elemento che può aiutarci comunque a comporre questo puzzle. Aldo, buongiorno. Buongiorno. Io telefono dalla Puglia, però io sono calabrese, e negli anni 60, all'inizio degli anni 60, mi ero diplomato da poco a Crotone come chimico, mio padre comandava la stazione di Serra San Bruno, era un paesino insomma all'epoca, adesso invece Serra San Bruno, quindi è nota anche per questa grande certosa, insomma. Sì, famosa. Sì, per cui ecco, poi lo andava a trovare perché negli ultimi anni della sua carriera papà comandava queste piccole stazioncine, anche se la famiglia ce l'aveva all'Ocri. Insomma, io lo andai a trovare e io ero abituato ad andare, perché era aperta solo agli uomini, andavo a trovare praticamente là, e andavo sempre in Certosa e discutevo anche con, diciamo, parlavo anche con i frati, specialmente l'erborista, per cui io ero un appassionato di erboristeria e lo sono ancora. Mio padre, ecco il particolare, mi disse: Aldo, vedi che nella Certosa c'è una persona molto importante, però di cui non ti posso dire praticamente, non proprio, era un po' un tipo molto riservato, insomma. Il carabiniere della zona sapeva. Appuntato dei carabinieri, mi disse, vede che era una persona molto importante, non mi disse che cosa. A distanza di tempo io poi lessi un libro di qualcuno che fece proprio, no, fece, come dire, seguì il tragitto degli ultimi anni praticamente di Ettore Majorana, e lo dava presente proprio a Cesare San Bruno proprio agli inizi degli anni 60. Quindi lei conferma quello io sì, confermo, però è chiaro, mio padre non mi disse chi fosse questa persona, insomma, ecco. Allora si diceva, si ipotizzavano due persone: o Ettore Majorana, questo me lo ricordo bene, oppure il pilota che aveva sganciato la ebola su Hiroshima. La bomba su Hiroshima, sì, anche questa era la seconda voce che girava. Di questo io poi mi è rimasto sempre questo in testa, no? Adesso risentendo le trasmissioni, che io seguo sempre la sua trasmissione, insomma, ecco, dico, forse non dico che è illuminante la mia testimonianza, no, però è comunque un passaggio importante. È un passaggio importante. Grazie Aldo, ricordo 800240024, se altri avessero altri elementi che possono aggiungere qualcosa alla documentazione già imponente che ha il collega Rino Di Stefano, ci farebbe piacere questa mattina dare qualche elemento in più. Riprendiamo il punto, Rino Di Stefano. Allora, sì, gli americani vogliono distruggere il satellite, chi altro si preoccupa di questa macchina? Subito dopo, dal momento che lui appunto si era rifiutato di prestarsi a queste richieste, intervenne il governo belga. E infatti sono stati tre i governi che sono succeduti in questi accordi. E il governo belga si disse interessato anche lui alla cosa, tra l'altro a livello del primo ministro, perché il primo ministro era Leo Tindemans, ricevette personalmente Belizza e diede via quello che loro chiamarono progetto Rematon, proprio per sviluppare le potenzialità di quella macchina. Se non che appunto un giorno lo hanno preso con la sua macchina e il suo assistente e lo hanno portato nell'aeroporto militare di Brascat, dove gli misero davanti, prima di tutto lui si ritrovò l'intero stato maggiore dell'esercito belga davanti, avevano invitato anche il professor Clementel in quell'occasione, e gli fecero vedere un carro armato e gli dissero: adesso per cortesia distruggi il carro armato. E lui ha detto di nuovo. A quel punto lì si è veramente arrabbiato e ha fatto implodere la macchina e ha richiesto di essere trasportato. Aveva un meccanismo di autodistruzione la macchina? Sì, di implosione, che poteva praticamente si auto annientava, si autodistruggeva. Ecco, ti sembra possibile, poi ci fermiamo un attimo, ci abbiamo la pausa, che in tutti questi anni, con queste prove certe, con questi personaggi di prima fila che si sono mossi anche in maniera abbastanza palese, al momento che tu ne hai la documentazione concreta? Sì, assolutamente. Dal punto di vista dell'industria nessuno si fosse interessato? Io immagino che se l'industria italiana avesse avuto questa macchina oggi saremmo un paese leader nel mondo, perché non avremmo bisogno di energia, anzi venderemo energia, chiederemmo scorie nucleari e le trasformeremo in energia, o scorie invece di metterle sottoterra nella terra del fuoco, ecco, faremo una produzione di energia. Come mai nessuno ha mai pensato dal punto di vista dell'industria di usare questa macchina? Guarda, io quello che so per certo è che il professor Clementel insistette parecchio, soprattutto con Andreotti, affinché appunto questa macchina restasse a casa nostra, ma purtroppo è stato colpito da un ictus a soli 63 anni ed è morto. Era l'uomo chiave che aveva, diciamo, perfetta cognizione del potenziale della macchina? Lui era l'unico in pratica che poteva in effetti dire qualcosa di scientifico su questa macchina. Perché senza di lui, Belizza senza di lui poteva essere considerato anche da molti un avventuriero, se non ci fosse stato lui a confermarne, diciamo, l'autenticità. Assolutamente, assolutamente. Ma poi tra l'altro da quel momento in avanti Belizza ha avuto un sacco di traversie, perché è stato colpito da tre mandati magistrati di cattura internazionali, soprattutto il più famoso è quello del giudice Palermo per il famoso processo di Trento per traffico d'armi. Ma fermiamoci un secondo, è una piega interessante, diamo un attimo la linea alle informazioni, pubblicità e via dicendo, e fra un secondo ci sentiamo con te, continuiamo con questa storia avvincente. La bella principessa di Leonardo a Monza. Gli scultori di D'Annunzio al Vittoriale. Il Museo della Follia a Mantova. Eventi unici di un programma unico. Expo Belle Arti Lombardia. Mostre e visite straordinarie per scoprire gli inestimabili tesori d'arte in Lombardia. Un progetto di Regione Lombardia a cura di Vittorio Sgarbi. Consulta il programma su expobellearti.regione.lombardia.it. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi. Nuova Smart Fortwo con il nuovo cambio automatico super veloce. Proprio mai. E allora davvero non cambi mai. Nessuno più ti può fermare. Tua anche con un anno di RC Auto e assicurazione furto incendio completamente gratuiti. Solo con finanziamento Mercedes-Benz Financial. Vieni a provarla. Infosmart.com. Smart. Che eleganti questi mobili bagno! Signora, questo mese hanno sconti fino al 50%. Remo, in bagno ci entri solo in abito blu. Negozi Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Scopri le offerte su iperceramica.it. Dall'Eni Station. Nel tempo di un pieno. Pronto, Matilde, che fai? Rifornimento! Ehi, quanto entusiasmo! È che è un buono sconto carburante Eni. Lo sconto suona sempre bene, eh? Ma come l'hai avuto? Scoprilo facendo la spesa da Auchan, Simpli e Lilla Pua. E allora salgo pure io sul carrello! Incarrelliamoci! All'Eni Station, per te, buonissimo carburante! Regolamento e punti vendita aderenti su enistation.com. Perché la sfida ambientale può essere un motore di innovazione sociale? Quali sono le opportunità offerte dalla bioeconomia? Quale può essere il ruolo strategico dei territori? L'11 settembre, alla Cascina Cuccagna di Milano, Novamont presenta Il potere del limite. Una risposta concreta e sostenibile alle esigenze di competitività e sviluppo. Blue Economy, collaborazione, legalità, rigenerazione territoriale. Perché la soluzione non è produrre meno, ma produrre meglio. Il potere del limite. 11 settembre, Cascina Cuccagna. Per informazioni www.novamont.com. Tempo in diretta. Previsioni a cura di 3B Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio 24 da Stefania Cattaneo. Torna il sole ma non il caldo sull'Italia, che sarà definitivamente spazzato via da venti più freschi da nord che regaleranno una fase per lo più soleggiata e gradevole quantomeno al centro-nord. Le regioni meridionali risulteranno ai margini dell'anticiclone. Tra domani e venerdì è attesa un'ondata di intenso maltempo a iniziare dalla Sicilia, poi Bassa Calabria, Lucania e Puglia, specialmente il Salento. Qualche acquazzone anche sulla Sardegna meridionale e il resto del sud, seppur in misura minore. Le temperature massime oscilleranno tra 23 e 26 gradi, mentre l'aria sarà fresca già al primo mattino. Per il momento è tutto, aggiornamenti in tempo reale scaricando l'app di 3B Meteo. Radio 24 ritorna al padiglione Cibus Italia a Expo Milano per una settimana con una programmazione da non perdere. Ti aspettiamo dal 5 all'11 settembre con dirette e programmi speciali al padiglione Cibus Italia, dedicato alle eccellenze dell'agroindustria italiana e ai protagonisti del Made in Italy. Info su radio24.it. Mi chiamo Bruno Briganti, sono nato a Forlimpopoli. Io sono responsabile dell'ufficio tecnico di Poltrone Sofà. Sono un modellista, faccio disegni, faccio i primi prototipi. Mi piacciono tantissimi i divani Poltrone Sofà, un po' perché li faccio io e poi sono proprio belli, insomma. Un artigiano Poltrone Sofà crea i suoi divani pensando proprio a te. E sulla qualità artigianale della collezione settembre risparmi il 50%. Divani belli, comodi, tutti fatti a mano in Italia. Vieni in negozio a scegliere il tuo preferito. Poltrone Sofà, sono un artigiano della qualità. Sei un'azienda e vuoi sbaragliare le aziende concorrenti? Agenti.it ti invita a Forum Agenti Milano, la fiera di ricerca agenti di commercio. Vai su agenti.it e prenota il tuo stand a Forum Agenti Milano. Incontrerai i tuoi nuovi agenti e batterai la concorrenza. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. 26-28 novembre, Fiera Milano City. Hai mai comprato prodotti biologici? Scopri Vivi Verde Coop, alimenti biologici buoni, sani e genuini che rispettano te e l'ambiente e prodotti ecologici realizzati con criteri sostenibili per garantire il minimo impatto ambientale. La Coop sei tu. Assistenza, perché il programma non funziona in mobilità? Assistenza? Lavorare in mobilità vuol dire essere abbandonato a te stesso? Ora puoi cambiare. Da 35 anni Team System sviluppa innovativi software per aziende e professionisti pensando a chi lavora dentro e fuori dall'ufficio. Teamsystem.com. Sono Bill Wright, consulente riduzione costi. Qui in Volkswagen vi siete inventati la Polo Cross. Bellissima, più alta, maggiore visibilità, perfetto. Ma in più? Protezioni sottoscocca, protezioni laterali, protezioni posteriori. Troppe protezioni, eliminiamole. Chi compra Polo Cross vuole l'avventura. Scopri nuova Polo Cross. Tua anche con finanziamento Tanzero Taeg 2.18. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Volkswagen.it. Gambero Rosso si quota in borsa. Info su www.gamberorosso.it. Melog. Cronache meridiane. Sto parlando con Rino Di Stefano, giornalista del Giornale, che ha lavorato molto sul caso della scomparsa di Ettore Majorana, anche un sito rinodistefano.com in cui sono raccolte le documentazioni riguardo al caso singolare, dibattuto, controverso, del quale nessuno mi ha dato poi una parola definitiva, sulle testimonianze di Rolando Pelizza, sedicente scienziato che avrebbe ricevuto da Ettore Majorana le informazioni per costruire una macchina fantastica che disintegra la materia e la trasforma in energia. Ci siamo lasciati al punto in cui, oltre l'interesse ufficiale del governo italiano, figura di Giulio Andreotti allora, ma anche dei servizi segreti più o meno deviati, è seguito anche l'interesse da parte del governo degli Stati Uniti, del Belgio, che volevano trasformare questa macchina che nasceva come strumento per dare benessere e energia in una macchina da guerra. Mi scrive un ascoltatore, Rino De Stefano, che in realtà è una bufala creata d'arte a quei tempi per gettare fumo negli occhi ai sovietici, cioè una strategia di guerra fredda. Te che opinione ti sei fatto? No, assolutamente, non è una bufala. Qui noi abbiamo una documentazione ricchissima a questo riguardo. Anche avrebbe avuto una maggiore evidenza, fosse una bufala l'avrebbero fatto titoli sui giornali. Ma assolutamente, ma qui è il discorso, sai, l'opinione pubblica si divide tra coloro che credono tutto e invece quelli che non credono niente. O gli scettici per principio. Probabilmente la verità sta a metà. Diciamo, quello che è documentato comunque, certo, allora, è certo che si mossero persone importanti, è certo ci fu attenzione dei governi. Quanto è certo invece che Pelizza abbia avuto dei contatti con Ettore Majorana? Cioè queste lettere lui gli ha scritto, sono state sottoposte poi a una prova calligrafica? Assolutamente, dunque io la prima volta che mi fu fatta vedere una lettera di questo genere era una lettera con intestazione Italia 26 febbraio 1964, di sette cartelle praticamente, cioè sette facciate, e questa lettera venne fatta vedere anche al professore Erasmo Recami, ordinario di fisica all'Università di Bergamo, che è considerato il biografo ufficiale di Majorana. E lui immediatamente disse sì, in effetti sembra proprio la calligrafia di Majorana. Io mi rifiutai di prendere in considerazione la lettera fino a quando non fosse stata periziata. La perizia è stata fatta dalla dottoressa Chantal Sala, che è una grafologa specializzata in ambito peritale giudiziario, ed è stata consegnata il 28 gennaio del 2015. Sono 21 cartelle e termina con queste parole: detta lettera è sicuramente stata vergata dalla mano del signor Majorana Ettore. Quindi diciamo ci sono dei buoni elementi, non totalmente, per la prova calligrafica poi ci sono dei margini anche lì di ambiguità, però ci sono buoni elementi. Adesso a questo punto tu hai detto che Pelizza ha avuto dei processi, denunciato dal giudice Palermo per costruzione di armi o per contrabbando di armi, è legata a questo tipo di raggio, diciamo, della distruzione? Sì, il cioè, più famoso magistrato, non è che di Trento, sì. Come era particolareggiata, formulata, diciamo, l'ipotesi di reato? L'accusa era quella di aver costituito una macchina bellica senza autorizzazione letale. E poi però venne assolto in primo grado. Lui venne assolto, invece il colonnello Pugliese no, e si fece, se ricordo bene, un anno e 8 mesi di carcere, ma in appello poi venne assolto anche lui. Quindi però per formulare un'accusa e fare un processo, qualche prova tecnica dell'esistenza c'è? Non è come, chiaramente come le armi di Saddam che poi nessuno ha mai trovato, qualcosa no, c'è? Quello no, quelle appunto non furono mai trovate, no, in questo caso il giudice Palermo chiaramente aveva dei riferimenti concreti, non credo che insomma porti uno sotto processo se non c'è qualcosa di palese. Ecco, due domande caso... ancora, l'arma che fine ha fatto poi il signor Rolando? Allora, i piani di costruzione della macchina sono stati affidati al professore Enrico Sciubba, professore di turbo machinery della facoltà di ingegneria della Sapienza di Roma. È quello che ha fatto diciamo il disegno tridimensionale, rendering? No, quello è stato un ingegnere elettronico di Milano, Franco Cappiello, che ha fatto un lavoro molto accurato e appunto ha disegnato col CAD, col sistema elettronico, tutta la componentistica della macchina, facendo vedere come dai singoli pezzi poi si arriva alla macchina finita. Invece proprio i disegni di realizzazione, di costruzione della macchina sono stati affidati a questo docente di Roma, con l'incarico appunto di realizzare la macchina e di sperimentarla, ma anche un altro docente, il professor Sergio Ratti, emerito di fisica sperimentale dell'Università di Pavia, si è detto disponibile a fare una prova, insomma, a verificare sul campo se questa macchina funziona come si dice che sia. Ma avendo i componenti e diciamo i piani di progettazione, sì, non ti viene l'idea che qualcuno l'abbia già ricostruita? Perché io fossi uno scienziato, avessi in mano i piani la costruire subito. Ma io penso di sì. Quindi esiste ancora. Certo. Mi sembra assurdo questo, a tutto per farla e non la fa. Almeno per provarci nel garage se funziona, non lo so. Mi sembrerebbe, io e te avessimo in mano i piani per costruirsi la macchina del tempo, ci proviamo a farla, poi vediamo che succede. Infatti, io un modello l'ho visto di questa macchina, però non l'ho mai vista funzionare. L'ho toccata, ho visto in che cosa consiste, tra l'altro è anche molto piccolo, anche se poi viene messa dentro 5 contenitori di metallo uno dentro l'altro per evitare di avere dei contatti con l'esterno. Comunque, insomma... Quanto è grande più o meno, per capire le dimensioni? È 52 centimetri di lato, è un cubo di 52 centimetri. Quindi è piccolina, è portatile praticamente. Sì, dentro il nucleo sarà, non lo so, 20 centimetri per 20 più o meno. Senti, l'ultima cosa invece, Pelizza che fine ha fatto? Pelizza si è trasferito in Spagna, vive in Spagna, proprio a causa di tutte queste vicissitudini che ha avuto, e ha lasciato la famiglia a Chiari, in provincia di Brescia, dove lui è originario. È ricco o povero? Assolutamente non ricco. Normale, vive in vita normale. Sì, non è non stiamo parlando di una persona facoltosa. E quando l'hai sentito l'ultima volta cosa ti ha detto? Qual era il suo punto di vista rispetto a questa vicenda? L'ultima volta che l'ho sentito è quando mi ha fornito queste lettere, che poi sono state motivo dell'articolo che ho pubblicato il 14 aprile scorso sul giornale. E niente, lui voleva semplicemente dimostrarmi che il discorso di Majoran non era inventato, non era una fantasia, ma era qualcosa di concreto, e che lui in effetti tutto quello che aveva preso lo aveva preso da Majoran. Chiaramente queste però sono verità, perché noi giornalisti se entriamo a conoscenza di qualcosa la pubblichiamo e più di tanto non possiamo fare. Qui dovrebbe essere l'autorità giudiziaria a vedere quanto di vero ci sia in tutto. Ecco, io questa mattina ho chiamato Rino Di Stefano perché sapevo che fino a questo punto la sua documentazione è inoppugnabile. Lui ce l'ha in mano, l'ha dichiarata, l'ha pubblicata, nessuno l'ha smentita. Quindi è inutile che mi continuate a mandare sms: Nicoletti, ci stai rivelando bufale, stai facendo la trasmissione sui misteri. Nessun mistero, ho semplicemente dato voce a un collega che coscienziosamente, come imporrebbe il nostro mestiere, ha messo insieme delle prove. Fin lì ci fermiamo. Poi cosa ci sia oltre questo, se ci saranno altri elementi, risentiremo Rino Di Stefano, che intanto saluto. E chiamo Massimo Polidoro. Buongiorno Massimo Polidoro. Buongiorno a voi. È giornalista, scrittore, divulgatore scientifico italiano, segretario nazionale e cofondatore del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo e l'Affermazione sul Paranormale. Quindi è il nemico delle bufale per eccellenza. ha scritto Il mistero del cronovisore, dedicato alla storia della presunta macchina del tempo di padre Ernetti. E qui entriamo nella seconda fase delle macchine misteriose. I punti in comune con la macchina di Majorana sono: anche la macchina di padre Pellegrino Ernetti affonda il suo principio in reali teorie fisiche, la teoria di Einstein e altre teorie. Anche qui c'è di mezzo il Vaticano che pare lo abbia fortemente osteggiato dopo averlo in qualche maniera incoraggiato per una macchina che avrebbe costruito insieme a padre Agostino Gemelli per mettersi in contatto con i morti. Io penso padre Gemelli, il nemico di padre Pio di ogni miracolo, con padre Ernetti progetta la macchina per mettersi in contatto con i morti. Partiamo dall'inizio. Allora, Massimo Polidoro, cos'è il cronovisore di padre Pellegrino Ernetti? Questa è una bellissima storia che, se non l'avesse raccontata già Asimo in un bellissimo racconto di fantascienza, sarebbe da raccontare. Primo, ci credi o no? O pensi che sia una bufala? Diciamo che propendo per la bufala, nel senso che la storia è molto bella, peccato che manchi qualunque tipo di prova. A differenza della storia di Majorana, qua sono tutte storie che si affondano su ipotesi, non su dati, fatti concreti. Chi era padre Pellegrino Ernetti? Era un monaco, era anche esorcista e aveva questa fama di inventore particolare, nel senso che il caso esplode nei primi anni 70 quando lui dà un'intervista alla Domenica del Corriere in cui racconta di aver inventato, appunto con Gemelli ma anche con Fermi e Von Braun, una macchina per vedere nel passato, il cronovisore, quindi non una macchina per viaggiare nel tempo ma per guardarlo come se fosse un televisore. Un televisore con una programmazione può vedere anche il passato, sì. Esatto, allora lui sosteneva, per provarlo, una volta che l'avevano costruita, si erano sintonizzati su un discorso di Mussolini che era abbastanza recente, potevano confrontarlo con filmati video che già erano disponibili. Allora poi, visto che funzionava, sono tornati a Napoleone, poi ancora più indietro all'antica Roma, Cicerone in una delle sue requisitorie e poi naturalmente, visto che è un sacerdote, ha voluto vedere, assistere alla crocifissione di Gesù Cristo. Ha visto la passione, la crocifissione minuto per minuto e l'ha documentata. Ci fermiamo un istante con Massimo Polidoro, riprendiamo proprio fra pochi secondi con la vicenda del cronovisore, la macchina per andare indietro nel tempo e vedere il passato di padre Pellegrino Ernetti. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. ...800 24 0024, invece che mandare sms dicendo che sono a livello di Giacobbo, tenete in considerazione il fatto che l'ospite che in questo momento sta assieme a me è Massimo Polidoro, il nemico di ogni giacobismo possibile, l'antigiacobista per eccellenza, che ci sta raccontando però una storia che ha molti punti in comune, è interessante da un punto di vista, se vogliamo, dell'analisi dei flussi leggendari che attraversano il nostro paese, con la vicenda della macchina misteriosa dettata da Ettore Majorana, monaco, a un suo adepto, che avrebbe richiamato l'attenzione di tutti i governi più potenti del mondo, ma che alla fine sembra che sia nascosta assieme ai suoi piani di produzione nel caveau di qualche scienziato italiano. Qua è una cosa un po' diversa, un bravo fratacchione, furbastro, esorcista ben messo, che rilascia un'intervista a un magazine italiano dove dice che ha inventato la macchina per tornare indietro nel tempo. Riassumo alcuni passaggi velocemente: dice che ha visto Cicerone che declamava il famoso discorso il contro Catilina, ha visto Napoleone, ha visto il Duce. Naturalmente non è che vede il signor Rossi nel 1945, vede sempre personaggi noti. Poi il punto migliore, dice che ha visto la passione di Gesù Cristo in tutti i suoi momenti e l'ha filmata, e avrebbe anche a questo punto prodotto una foto del volto di Cristo che sarebbe stato riconosciuto da Madre Speranza, una mistica che viveva nel convento di Colle Valenza vicino a Perugia, che conosco bene, tanto che qualcuno però questa foto di Cristo alla fine l'ha individuata nella foto di un crocifisso di legno che sta proprio tanto bene nel convento di Colle Valenza. Madre Speranza aveva detto sì, è uguale a quello che vedo io nelle mie visioni, questa era la prova. Sono stato troppo brutale nella mia ricostruzione, Polidoro? No, direi che c'è proprio tutto. L'unica prova concreta era quella fotografia e si è scoperto che era la la foto di un santino che riproduceva appunto la statua del Cristo. Quindi proprio lì c'era la santa mistica che aveva visto Cristo nelle visioni, capito? Non voglio mettere in dubbio, figuriamoci, ma per carità, l'ha fatto la foto lì, gli ha fotografato il crocifisso che stava accanto a lei. Anche la famosa opera inedita che lui sembra visto di Tieste, ma alla fine quando l'ha pubblicata lui dice l'ho riscritta a mano al volo, una sì. Nota latinista ha detto sì, sono i frammenti che tutti conosciamo e gli intermezzi si vede che l'ha scritti uno dei tempi nostri, un bufalaro da questo punto di vista. Esatto, poi c'è anche da dire che lui il punto di morte si dice che abbia ritrattato dicendo che non era vero niente. Mi ero inventato sempre, tutto. Le leggende metropolitane vivono di vita propria. Come ha fatto questa storia però avere tanto seguito? Ci sono anche libri scritti da stranieri, dettagliatissimi in ogni momento, anche persone che hanno cercato di dare una motivazione scientifica seria a questo cronovisore. Come funzionava? Ma come funzionava ovviamente... Come lui diceva che funzionasse. Utilizzando quelle che sarebbero le vibrazioni che ognuno di noi lascia nei luoghi che incontra. Ecco, questa è già una definizione che non ha nessun senso scientifico, nel senso che quali sarebbero queste vibrazioni, come si misurano. Se uno ha un vibratore nella borsetta, chiaro, acceso, lascia vibrazioni. Ecco, queste scie che qualcuno lascia appunto... e resterebbero nella memoria dell'ambiente. Diciamo che la fisica teorica dice tante cose, dice che nel taglio si può trovare quello che vuole alla fine, no? Comunque lui recuperava queste scie di energia che lasciavano momenti del passato e con questa sua macchina, diciamo, le fermava, le immagazzava. Qual era il suo scopo? Però tu hai scritto un libro, quindi un pochino l'hai studiato il personaggio. No, io di lui ne ho parlato in un libro, non proprio dedicato tutto a lui. Qual era il suo scopo? Come sempre in queste storie, qual è lo scopo di chi si inventa una bellissima storia di cui poi magari tutti continuano a parlare? Lì bisogna entrare proprio nella psicologia individuale, no? C'è chi queste cose le fa perché ha bisogno di sentirsi al centro d'attenzione, altri lo fanno per giustificare quelle che sono credenze o magari la convinzione che una cosa del genere si potesse veramente fare, solo che come si fa a farla non lo so, però raccontiamo che esiste perché è importante che si sappia che questi fatti sono accaduti realmente, storicamente, insomma i motivi possono essere tanti ed è impossibile sapere. Vediamo se riusciamo a mettere insieme degli elementi comuni tra queste due storie. Innanzitutto il Vaticano depositario di segreti indicibili mi sembra che sia un condimento importante per tutte le storie fantastiche che girano attorno, e poi questa sorta di contrapposizione tra scienza esatta, positivistica e la grande intelligenza ecclesiale che comunque prende tutto e tutto vuole saggiare e conoscere, cioè Padre Gemelli che chiede di costruire una macchina per parlare con i morti. Mi sembra fantastica come idea. Sì, esatto, potevano scegliere un personaggio forse più plausibile, visto che non era tanto tenero, no? Verso certi tipi. Assolutamente, fece una battaglia incredibile a Padre Pio, proprio esatto. Perché dispregiava questo aspetto favolistico, superstizioso, era un prete scienziato, pieno di limiti e di problemi, però era un po' difficile. Poi quali sono gli altri elementi che mettono in comune queste due storie? Perché io sono circondato da messaggi in questo momento che mi danno del buffone e del accreditatore di storie misteriose. Poi queste storie galleggiano. Sì, ma queste storie non affondano mai, nel senso che non, per quante prove si portino a dimostrare che non stanno in piedi, c'è sempre comunque quel come dire, desiderio di tenerli in vita, perché comunque sono belle da raccontare, anche se poi non sono vere, ci sta sempre la possibilità di dire sì, d'accordo, ma voi avete degli interessi per nasconderle, perché in effetti... Tu la storia di Majorana te ne sei mai occupato? Non me ne sono occupato direttamente. E che idea ti sei fatta su quella cosa? C'è qualcosa però lì di più concreto rispetto alla storia di Ernetti, che è una bellissima favola, sta benissimo. Ma anche lì ci sarebbe da esaminare concretamente quelle che sono le prove disponibili. Se questa macchina c'è, è esaminabile in qualche modo, vediamola, insomma. Ti interessa a te questa vicenda? Moltissimo, sì. Moltissimo. Ecco, invece l'idea del complotto, c'è sempre un grande complotto, tiene tutto nascosto perché la gente non sappia, rimanga nell'oscurità. Sono entrambe lambite da questa idea del complotto. Beh, l'idea del complotto è un po', ricorre un po' in tutte queste storie, nel senso che c'è sempre, secondo coloro che appunto ci credono, il bisogno di giustificare il fatto che questa macchina alla fine dov'è? Perché non c'è? Perché allora bisogna tenerla nascosta, perché ci sono degli interessi forti, perché qualcuno come dire, non vuole che si sappia. La teoria del complotto, la cospirazione è un po' un modo, se vogliamo, semplice di spiegare. A noi ci piace pensare che l'ultimo scienziato che ha i piani e la macchina l'ha costruita nel garage, che l'ha vista il nostro collega, la tenga lì per cucinarsi gli arrosticini e non dia fastidio a nessuno. Grazie, a domani.